Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Milano, sabato 18 marzo 1978, due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro. Il silenzio maschera il rumore sordo di passi veloci, quelli di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio, 19 e 18 anni. Due ragazzi di sinistra. All'altezza del portone dell'Anderson School, in via Mancinelli, i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo. Due persone si avvicinano con fare sbrigativo, li bloccano. Ora i quattro si trovano faccia a faccia. La loro vita si spegne sotto i colpi di 8 proiettili Winchester calibro 7,65 sparati da un killer professionista. Un'esecuzione. Il primo a cadere è Fausto, poi tocca Lorenzo. Fausto è riverso sul piano stradale mentre Iaio si trova a breve distanza, centrato dal killer mentre tenta una fuga impossibile. Dopo quei colpi sordi la strada si fa ancora più scura e nel buio scappano gli assassini. Radio Popolare di Milano interrompe così le sue trasmissioni. Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Roncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da 3 individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra. Il 22 marzo 1978 Milano si ferma per i funerali di Fausto e Iaio. Milano si è fermata stamane dalle 11 alle 12 per il funerale di Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli, i due giovani simpatizzanti dell'ultrasinistra assassinati sabato scorso a colpi di pistola in via Mancinelli. Il silenzio è calato nelle fabbriche e nelle scuole. E in silenzio la gente ha accompagnato le esequie dei due giovani, poco più che ragazzi, alle quali ha partecipato una folla di circa 50.000 persone. Ricostruiamo allora che cosa è accaduto la sera del 18 marzo 1978 a Milano, intorno a via Mancinelli, nel quartiere Lambrate. Verso le 19:30, Fausto e Iaio si incontrano in un'osteria di via Leoncavallo, a pochi passi dal centro sociale. Da lì si muovono per andare a cena a casa di Fausto, come fanno sempre il sabato sera, per poi tornare al centro sociale, dove è previsto un concerto di blues. Percorrono a piedi via Lambrate fino a piazza San Materno, poi svoltano verso via Casoretto. Il giornalaio all'angolo li ricorda fermi per qualche secondo davanti all'edicola, dovrebbero proseguire per via Casoretto verso via Montenevoso, dove abita Fausto, ma qualcosa o qualcuno li attira verso via Mancinelli, una strada buia e poco abitata. Il capo di gabinetto della Questura di Milano, Bessone, arriva subito in via Mancinelli dove Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci sono stati assassinati. È chiaro, si tratta di un regolamento di conti, una faida fra gruppi della nuova sinistra o inerente al traffico di stupefacenti. Questa è dunque la prima pista imboccata dagli inquirenti. Ma il sostituto procuratore di Milano, Armando Spataro, e il poliziotto Carmine Scotti si fanno ormai un'altra idea. È un duplice omicidio politico, maturato negli ambienti della destra eversiva romana e milanese. Infatti, giunge la rivendicazione da Roma. È un gruppo neofascista vicino a NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari. Il documento è firmato Brigata Franco Anselmi. Quella della Brigata Franco Anselmi è una storia che parte da lontano. Roma, 6 marzo 1978. Due ragazzi ben vestiti entrano in un'armeria del quartiere Monteverde e, pistole alla mano, si impossessano di armi, gioielli e denaro. Altri due li aspettano fuori su un'auto e una moto rubate. Mentre escono col bottino, c'è uno scontro a fuoco. Tre riescono a fuggire, il quarto perde la vita sulla porta del negozio. È Franco Anselmi, 22 anni, iscritto al primo anno di legge all'Università di Perugia, dove divide un mini appartamento con Massimo Carminati. Ha cominciato la sua attività politica 5 anni prima nel Fronte della Gioventù. Il 28 febbraio del 75 a Piazza Risorgimento, negli scontri fra estremisti di destra e di sinistra, Anselmi è accanto a Mikis Mantakas, quando quest'ultimo viene ucciso da un proiettile di P-38 che lo colpisce alla testa. Un anno dopo, Franco Anselmi è a Sezze, a fianco dell'onorevole missino Sandro Saccucci. Negli scontri che seguono il comizio, resterà ucciso un giovane comunista. A fine 77, con i fratelli Fioravanti, Alibrandi e altri, compie i primi attentati terroristici contro le sedi romane del Messaggero e del Corriere, rivendicati dai NAR, nuclei armati rivoluzionari. Il 7 gennaio del 78, davanti alla sede del Movimento Sociale a Via H. Larenzia, vengono uccisi due studenti di destra, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Centinaia di neofascisti si radunano sul posto, scoppiano disordini e un altro studente di destra, Stefano Recchioni, viene colpito dal fuoco di un carabiniere e muore tra le braccia di una compagna di scuola, Francesca Mambro. La sera del 28 febbraio, in una riunione al Bar del Fungo, all'Eur, i fratelli Fioravanti, Anselmi, Alibrandi e altri quattro decidono di vendicare i morti di H. Larenzia. In una spedizione al quartiere Don Bosco si lanciano sparando contro alcuni ragazzi di un centro sociale. Feriscono Nicola Scialabba e ammazzano con due colpi alla nuca il fratello Roberto. Il 6 marzo c'è la rapina all'armeria di Monteverde che costa la vita a Franco Anselmi. Due giorni dopo, in una cabina telefonica sulla Cristoforo Colombo, viene fatto trovare un volantino che annuncia la nascita dei gruppi armati Franco Anselmi. Il 18 marzo, a Milano, tre killer giovani, eleganti, a viso scoperto, uccidono Fausto Tinelli e Iaio Iannucci. Cinque giorni dopo, a Roma, un volantino rivendica l'esecuzione dei due ragazzi milanesi per vendicare Mantakas, Ciavatta, Bigonzetti e altri quattro camerati uccisi. Il volantino è firmato Brigata Combattente Franco Anselmi. Le intuizioni del magistrato Armando Spataro, del poliziotto Carmine Scotti, del giornalista Mauro Brutto giungono molti anni dopo sul tavolo del giudice Guido Salvini. Centinaia di interrogatori di collaboratori di giustizia, un lavoro paziente e attento sui documenti di rivendicazione e sugli atti giudiziari di altri processi portano Salvini a formulare un'ipotesi. Sono tre gli indiziati, Massimo Carminati, Claudio Bracci e Mario Corsi. La loro posizione sarà archiviata dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Milano, Clementina Forleo. Così parla l'avvocato di parte civile Luigi Mariani. Questo processo è andato molto vicino alla verità. È sicuramente fuori discussione che questo duplice omicidio è avvenuto e maturato negli ambienti dell'eversione fascista romana, come peraltro ha precisato il giudice che ha archiviato questo caso. Questo fascicolo è stato archiviato il 6 dicembre 2000 e vale la pena di ricordare che cosa ha detto il giudice che ha archiviato il procedimento. Ha detto che pur in presenza di significativi elementi indiziari a carico della destra eversiva e in particolare degli attuali indagati, appare evidente allo Stato la non superabilità in giudizio del limite indiziario di detti elementi e soprattutto per la natura de-relato delle pur rilevanti dichiarazioni sopra riportate. In sostanza, quelli che sono gli indagati di questo processo sono indicati da tutta una serie di persone che hanno collaborato con la giustizia, che hanno fatto parte delle versioni di destra, come gli autori di questo duplice omicidio. Forse qualcuno, dopo tanto tempo, preso da qualche crisi di coscienza, potrebbe fornire quei dati che sono mancati. Certamente quello che ha messo in luce questo processo è che è partita una squadra da Roma che ha potuto operare a Milano perché aveva degli appoggi logistici a Milano. Il 18 marzo 1978 la famiglia di Fausto Tinelli abita in via Montenevoso 9, davanti al numero civico 8, dove le Brigate Rosse avevano affittato un appartamento, dove vivevano alcuni dei responsabili della strage di via Pani, brigatisti come Lauro Azzolini e Franco Bonisoli. Esattamente nel punto dove qualche mese dopo i carabinieri troveranno le carte scritte del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Danila Tinelli, la madre di Fausto Tinelli, è ancora oggi convinta che ci sia qualcosa di molto più grande dietro all'omicidio di suo figlio. Sono stati scelti per ammazzarli. Lei pensi che io abitavo in via Montenevoso e sopra di me avevo i servizi segreti, perciò è stata una scelta per sviare le indagini su Moro. Può darsi che abbia visto qualcosa, che quando si vede qualcosa può darsi che è destinato a scomparire. Quello non posso dirlo. So che eravamo seguiti io anche mio figlio, Altrimenti il giudice in 27 anni sarebbe venuto al dunque, se fossero stati due fascistelli a ammazzarli, e il caso sarebbe risolto in 24 ore. Purtroppo è una cosa legata al terrorismo, infatti noi siamo vittime del terrorismo. Dopo la pausa, Giallo e Nero torna a parlare di Fausto e Iaio. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Sapete come si riconosce un bravo cronista di Nera? È uno che non crede mai alle verità ufficiali, compie indagini in silenzio, senza produrre rumore e alla fine giunge alle sue conclusioni. Mauro Brutto è un giornalista investigativo. Lui lavora all'unità Cronaca Nera. Parte di prima mattina, controlla le sue fonti, verifica ogni particolare. Solo a quel punto scrive. Di sera torna in redazione, toglie il suo impermeabile, rimane lì fino a tardi con la sua luce fissa e quelle carte che incolla. Sono appunti. Poi, quando pensa di essere alla fine della sua inchiesta, li srotola e tutto gli sembra più chiaro. Mauro Brutto indaga su molti misteri italiani. Il traffico di sostanze stupefacenti, i vertici della cupola mafiosa, le bische clandestine di Epaminonda, i sequestri di persona, il terrorismo di destra e di sinistra. In particolare, Brutto, dal 18 marzo 1978, sull'omicidio di Tinelli e Iannucci, muove un'inchiesta parallela e giunge ad un centimetro dalla verità. Ma... ...25 novembre 1978, 20:45. Mauro Brutto esce dalla sua macchina ed entra nel bar tabacchi in via Murat 36 a Milano. Rimane giusto il tempo per comprare due pacchetti di sigarette, beve un aperitivo, poi schizza fuori. Alla prima metà della strada, proprio sulla striscia bianca che divide le carreggiate. Guarda da una parte, c'è una Fiat 127 rossa. Attende il passaggio, ma nella direzione opposta appare una Simca 1100 bianca che viaggia a 70 km all'ora. La vettura punta su Mauro, lo coglie di striscio quanto basta per farlo finire sotto le ruote del 127 che lo travolgono e lo uccidono. Un incidente, così almeno è scritto nel decreto di archiviazione. Il primo cronista che giunge in via Murata a Milano è Gianni Piva, amico di Mauro Brutto. Ci eravamo appena lasciati al giornale, è arrivata la segnalazione sulla radio che anche noi avevamo, come avevano tutti i giornali a quei tempi, per cogliere delle indicazioni da parte delle volanti, che c'era stato un incidente non molto lontano dal giornale e anzi parlavano di uno ucciso. E quindi io sono partito pensando di andare a fare uno dei tanti servizi. Quando sono arrivato sul luogo, per un po' mi sono comportato come ci si comporta in quel caso, si guarda, si chiede, si cerca di capire cosa è successo con questo corpo in mezzo alla strada. E allora ho visto che alcuni particolari mi proiettavano in una situazione assolutamente inimmaginabile, l'impermeabile, le scarpe e poi... Mi sono avvicinato e quindi l'ho riconosciuto. Ripensando e rivedendo, devo dire che l'agguato preparato con una macchina che a quel punto avrebbe dovuto seguirlo per investirlo è una cosa, mi sembra, complessissima di fronte a una serie di passaggi assolutamente casuali. Giuseppe Ceretti, ex capo redattore dell'Unità, ora al Sole 24 Ore Online, era amico di Mauro Brutto. Mauro è stato davvero un maestro per me e per molti dei colleghi che come me hanno avuto la fortuna di averlo incontrato. Mauro è morto molto giovane, ma aveva già alle spalle un'esperienza per un tipo di giornalismo militante che da questo punto di vista non esiste più, anche perché è fortunatamente in alcuni casi e fortunatamente è mutato il clima che allora c'era a Milano, era la Milano degli anni 70, era la Milano dei grandi Turatello, di Epaminondo, insomma. Però proprio questa scuola ha fatto sì che senza retorica lui fosse davvero, diciamo, un cronista di strada, sempre curioso. Allora c'era soprattutto un elemento che poi è stato un elemento alla base degli avvenimenti che anche lo hanno direttamente coinvolto, cioè l'elemento di una criminalità che allora si mescolava insieme alla criminalità politica e al terrorismo. Probabilmente anche nella circostanza tragica di Mauro questi elementi, ma qui siamo, diciamo, nel campo dei sospetti legittimi e fondati, questi elementi si sono mischiati. Mauro Brutto, poco prima di morire, lavora con un gruppo di giovani giornalisti e scopre che dietro al barbaro assassinio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci si cela molto di più di un mero movente politico. In via Arqua a Milano è oggetto di tentato omicidio. Uno sconosciuto gli spara alcuni colpi di pistola mentre esce da un bar della zona Lambrate. La sera in cui muore, il giornalista porta con sé un borsello pieno di documenti. Sarà trovato a 200 metri da via Murat, vuoto, privo del suo prezioso contenuto. Dario Brutto, fratello di Mauro Brutto, era avvocato. Ora ci ha lasciato, ma per tutta la sua vita si è speso per trovare una verità plausibile sulla morte della persona a lui più cara. Quella che sentirete è una delle ultime interviste concesse alla trasmissione di Rai 3 Confini. Sono state due inchieste della magistratura, ambedue conclusesi con sentenze di non luogo procedere perché ignoti gli autori del reato. Io da parte mia ho continuato a sperare e a credere che qualcosa venisse fuori da questa situazione, ma purtroppo devo dire che la magistratura non è che ci abbia dato una grande mano. Io non so cosa contenesse quel borsello, senza dubbio conteneva dei documenti molto importanti, tanto è vero che mio fratello, prima di essere ucciso, si recò al nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri presso il tribunale di Milano chiedendo del colonnello Gerolamo Cucchetti per lasciargli questo dossier. In sostanza lui era stato fatto segno a un attentato precedentemente in via Arqua, dove era stato fatto segno a tre colpi di pistola, non si sentiva più sicuro, voleva consegnare a qualche magistrato o allo stesso Gerolamo Cucchetti, colonnello comandante nel nucleo di polizia giudiziaria, questo dossier, e per una serie di circostanze non ce l'ha fatta. Il giorno dopo è stato ucciso, il borsello è stato trafugato e il dossier è sparito. E allora, che cosa poteva aver scoperto Mauro Brutto di così tanto importante? Per Giuseppe Ceretti, giornalista dell'Unità, si trova nel crocevia più pericoloso. Terrorismo, servizi segreti, criminalità organizzata. Quella morte ci diede per la prima volta la sensazione corposa che queste vicende che legavano allora il terrorismo, i servizi segreti, le vicende legate anche allo spaccio della droga, non erano soltanto delle fantasie, erano qualcosa di più. C'era un clima di grande incertezza, cupo, non c'era più niente da scherzare, che era tutto corposamente vero. Quello è il cambiamento di clima. Mauro era una specie di, insomma, c'erano degli atteggiamenti un po' da vecchi gialli degli anni 50 nel suo modo di essere, insomma, quelle lattine di birra portate, quello di scrivere a tarda ora alla sera, ci faceva anche sorridere e lui sapeva ironizzare anche di se stesso, no? E invece quella morte creò uno squarcio, creò uno squarcio perché ci aveva tolto qualcosa che ci univa profondamente, ci aveva tolto, ma ci aveva tolto soprattutto una cosa, la voglia di giocare, di divertirci col nostro mestiere che in fondo noi avevamo. E questo lo dico senza retorica. Pino Adriano, giornalista e scrittore, autore insieme a Giorgio Cingolani del libro Corpi di Reato, ci svela l'ultimo tassello dell'inchiesta sulla morte del giornalista Mauro Brutto. Scoprii quello che nel libro viene chiaramente definito come un errore giudiziario, ma apparentemente banale, e che invece ha determinato una interpretazione della dinamica dell'incidente che ha portato per la conclusione che si fosse trattato di un incidente. Il dettaglio è dovuto a un errore di trascrizione dalla prima certificazione di morte alla seconda certificazione fatta ad uso dei periti. Sulla prima certificazione si parlava di due fratture alla gamba, sulla seconda le due fratture erano diventate una. Il corpo contundente che può provocare due fratture a una certa distanza l'una dall'altra non può essere lo stesso corpo contundente che provoca invece un'unica frattura. Ora, partendo dal presupposto di un'unica frattura, i periti avevano stabilito che questa frattura era stata provocata dal paraurti. Il caso invece della doppia frattura non era spiegabile con un semplice impatto con il paraurti. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline, dbiacchessi@radio24.it.